Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di un romanzo storico legato alle vite e alle vicissitudini di un personaggio storico realmente esistito che ci porta alle origini dell'Europa e del capitalismo moderno, e cioè Jacques Coeur. Il libro si intitola L'uomo dei sogni, ne è autore Jean-Christophe Ruffin, 416 pagine, 18,50 euro, pubblicato da Edizioni E.O., tradotto da Alberto Bracci Testasecca. L'autore è uno dei più celebri letterati francesi, è un medico, ha fondato Médecins Sans Frontières, è stato anche ambasciatore del suo paese nel Senegal e ha scritto questo libro, ripeto, dedicato a questo personaggio, Jacques Coeur, che fu famoso all'epoca per essere diventato pare l'uomo più ricco del suo tempo. Era figlio di un pellicciaio, veniva dalla piccola borghesia, ma diventò ben presto ricchissimo, dedicandosi ai commerci, intrecciando la propria vita con quella del re Carlo VII. Siamo infatti nella Francia che esce dalla guerra dei cent'anni. Jacques Coeur visse tra il 1395 e il 1456 e con Carlo VII diventò addirittura il titolare dell'argenteria, una specie di ministro del tesoro, salvo poi cadere in disgrazia perché l'enorme successo finanziario e economico suscitò una ondata di invidia e di scandali che lo costrinse all'esilio, prima alla prigionia, poi all'esilio, dove morì, perché Jacques Coeur morì in un'isoletta greca appunto nel 1456. La sua vita è raccontata in questo romanzo di Jean-Christophe Ruffin che ci riporta all'alba del capitalismo europeo, e su questo proprio facciamo alcune domande all'autore. Buongiorno a Jean-Christophe Ruffin. Buongiorno. Jean-Christophe Ruffin, il suo Jacques Coeur è un personaggio storico, lei ne ha dato una vita romanzata, ma sappiamo molto di Jacques Coeur. Ecco, possiamo dire che Jacques Coeur è stato uno dei padri del capitalismo, in fondo anche della globalizzazione internazionale? Esattamente, perché lui ha vissuto alla fine della guerra di cento anni, che ha portato molta miseria, molta povertà in Francia, in Europa, e lui ha contribuito a creare un nuovo sistema commerciale a livello mondiale dall'epoca, e realmente ha trasformato completamente l'Europa, la Francia e l'Italia anche per la sua azione. Ecco, una delle azioni principali che Coeur ha fatto è stato lo sviluppo del commercio. Il commercio, nella sua immagine, diventa proprio il meccanismo per cambiare il mondo. Sì, perché tutto questo è successo per lui per caso, perché fino a 30 anni ha vissuto nella città dove è nato, e senza fare cose molto interessanti, perché era un banchiere ma di basso livello. Poi per caso, dopo delle sue 30 anni, è andato nel Levante, a Damas, a Beirut, in Egitto, e là ha scoperto che c'era una civilizzazione incredibilmente più avanzata che quella da Francia, e ha pensato, invece di fare la crociata, ha pensato quello che era molto, molto nuovo per l'epoca, ha pensato che si doveva piuttosto scambiare con questi paesi e prendere quello che avevano di più avanzato, e ha immaginato questo sistema appoggiato sul potere del re da Francia dall'epoca, per diventare un certo di intermediario tra l'est e l'ovest, e ha completamente trasformato il paesaggio dell'Europa dell'epoca. Infatti nel suo libro Jacques Coeur dice: il commercio è l'espressione del legame comune che, grazie allo scambio e alla circolazione, unisce gli esseri umani. Quindi il commercio quasi come lo strumento di un nuovo ordine anche internazionale. Sì, ma nello stesso tempo non è una cosa completamente positiva, perché nello stesso tempo quel personaggio che rappresenta il capitalismo primitivo, diria, anche ha portato molte cose favorevoli, ma anche ha cominciato a mostrare gli eccessi del capitalismo finanziario particolarmente. Quindi dall'inizio, da questo momento, si può capire quello che quel capitalismo in cui viviamo oggi, in una certa parte, porta molti vantaggi, molti effetti positivi, ma nello stesso tempo già in potere, già c'è tutto tutti gli eccessi che noi vediamo oggi. Ecco, fra le degenerazioni del capitalismo o le versioni del capitalismo, una che emerge nel suo libro è quella che noi chiamiamo colbertismo, l'intervento dello Stato. Il re di Francia a un certo punto vuole diventare anche produttore, l'economia dipende molto dal potere politico e Jacques Coeur aderisce, diciamo, a questa visione. L'argenteria diventa un po' un ministero non soltanto del tesoro ma anche della produzione. Sì, ma ci sono due ragioni per questo. La prima è che lui aveva capito che per sviluppare il commercio bisogna di avere la pace, di avere la capacità di muoversi attraverso il paese e deve ricordarsi che all'epoca la Francia era cortata in tre parti con gli inglesi che occupavano tutto il nord del paese, quindi si è appoggiato sul re primo per riuscire a creare questo spazio in cui si poteva fare quell'intercambio ad una maniera che sia possibile, che sia sicura. Ma nello stesso tempo ha creato questo legame con il potere per un'altra ragione, che è questo potere era un certo tipo di cliente dalla casa commerciale di Jacques Coeur, e ha creato un sistema di, diciamo oggi, che con una parola che non è del tempo, ma che ha creato un'economia mista, un'economia che sia per un parte liberale, per un parte privata, ma per l'altra appoggiata sullo Stato, quello che è una particolarità molto specifica della storia francese. Certo. Jacques Coeur amava molto il lusso, non per sé, ma vedeva nel lusso lo strumento per sublimare le migliori esperienze dell'uomo. Dice, costituiscono le espressioni del lusso la più elevata attività dell'uomo, quella che rendendolo padrone di creare mondi nuovi lo mette sullo stesso piano degli dèi, insomma il lusso quasi come uno strumento di Prometeo. Sì, ma bisogna ricordarsi di in che epoca si acontesse questa storia, perché dopo di questi anni di miseria, di guerra, c'era un bisogno terribile di non solo di lusso ma anche di conforto, di benessere, e per lui la prima cosa era già di permettere ai contemporanei di approfittare delle cose le più moderne, le cose le più innovante. Per esempio lui nella sua città dove è nato ha creato un hammam, un bagno turco, che lui aveva visto questa invenzione nel Levante e ha portato questa invenzione nella propria regione. Per questo non è solo il lusso come una cosa che sia in eccesso, che sia inutile, ma lui ha portato all'Europa questa nozione del piacere, del corpo, del lusso, della bellezza dei vestiti, delle case. E per esempio ha costruito a Bourges, la sua città, un palazzo che ha due lati. Su un lato è ancora un castello del Medioevo, un castello militare, ma dall'altro lato è un palazzo del Rinascimento. Per questo è un personaggio che realmente è tra due epoche, e va lui stesso non approfittare molto di questo lusso, perché la sua vita sarà piuttosto una vita di sforzo, una vita di viaggi inconfortabili e di lavoro, ma lui va a preparare l'epoca che segue, che è l'epoca del Rinascimento. Senta, il suo libro si conclude poi con un elogio della scrittura. Alla fine della sua vita Jacques Coeur scopre la libertà nella scrittura, nel raccontare la propria vita. Come mai gli ha messo in bocca questa scoperta? Perché tutti i libri che sono stati scritti sul personaggio hanno fatto di lui un businessman, un banchiere. Quello è la realtà, ma io penso che la cosa più importante per lui è l'immaginazione, è la capacità a immaginare un nuovo mondo. E c'è una relazione molto, molto stretta tra il lavoro della creazione letteraria e quell'immaginazione di un creatore di un nuovo mondo. Per cui io penso che è un personaggio che si deve capire più come qualcuno che sogna, qualcuno che ha questa capacità di immaginare cose che non esistono ancora, e questo me li ha reso molto prossimo, perché se fosse un businessman, io non sono un businessman, un po' troppo, ma sono uno scrittore, e attraverso di Jacques ho riconosciuto delle cose che io conosco bene. Grazie a Jean-Christophe Ruffin, autore dell'Uomo dei Sogni. Buona domenica. Grazie. Un altro racconto che ci porta alle origini della cultura della civiltà occidentale è quello di Fulvio Beschi, un filologo classico che ha pubblicato La leggenda di Troia, il racconto, Einaudi, 170 pagine, 12 euro. Il mito collegato a Iliade e Odissea è ben noto a tutti, ma naturalmente quei cicli escludono tanti altri episodi importanti a partire dagli antefatti della guerra di Troia. Allora qui in questo libro troviamo una guida molto godibile, una presentazione di alcuni dei miti fondanti della civiltà greca fino alla guerra di Troia e alla fine malinconica di Ulisse, ucciso involontariamente dal figlio che aveva avuto da Circe, la quale convertirà il dolore di Penelope e dei figli di Ulisse che approderanno all'Isola dei Beati. E da Troia si parte nel libro di due storici inglesi, Simon Price e Peter Thoneman, che si intitola In principio fu Troia, l'Europa nel mondo antico, è pubblicato dalla Terza, 410 pagine, 24 euro, tradotto da Lorenzo Argentieri. Si parla dunque della storia d'Europa a partire dal mito fondativo della fanciulla rapita da Zeus che si era trasformata in toro, la fanciulla era appunto Europa. E si parla soprattutto del bacino settentrionale del Mediterraneo e dunque dei Greci e dei Romani, partendo dal mondo Egeo fino al tardo Impero Romano. Questo di Price e Thoneman comunque non è una semplice storia, perché il libro vuole riflettere proprio sul tema della memoria, dell'identità comune e del modo in cui questa è cambiata assieme all'idea stessa di Europa, soprattutto in tempi nei quali i confini stessi dell'Europa si fanno sempre più fluidi. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Dalla storia remota passiamo adesso all'attualità. La settimana che si è appena chiusa ha visto due eventi importanti. Cominciamo dal primo. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. La scelta del nome Francesco è stata una delle grandi sorprese del pontefice che è stato appena eletto, Francesco I, e allora parliamo di questo santo. Per la verità non abbiamo neanche capito se il Francesco evocato dal nuovo pontefice sia San Francesco d'Assisi, ci sono altri santi, anche santi gesuiti che portano lo stesso nome, ma insomma l'impressione generale è che il richiamo sia stato al santo di Assisi. E allora a questo santo è dedicato il libro che adesso vi presento di Silvano Vinceti, Francesco il rivoluzionario di Gesù. Forse da questo libro trarremo alcuni elementi per capire come mai l'allora Cardinal Bergoglio abbia scelto questo nome appena è stato eletto Papa. Il libro è pubblicato da Armando Editore, 160 pagine, 18 euro, e contiene anche un DVD con un documentario, perché l'autore appunto è uno scrittore, un conduttore televisivo. San Francesco, questo San Francesco, secondo l'autore, è un personaggio complesso. Egli scrive infatti che Francesco sfugge a ogni tentativo di inquadramento, di descrizione, di interpretazione, cangiante, meraviglioso, imprevedibile, come un gioco di bianche verginali nubi nel loro costante divenire. E questo libro parte da due classici, gli studi di Le Goff e di Cardini, dai quali l'autore ricava un'interpretazione anche psicologica della figura di San Francesco. Per esempio la conversione dalla vita dissipata che il giovane Francesco teneva alla vita ascetica e monacale alla quale si sarebbe dedicato diventa uno scontro tra le regole della comoda normalità contro la metamorfosi esistenziale. Questo è il titolo del primo capitolo. E si parla anche nel libro di economia, un capitolo certo interessante per chi ascolta in particolare questa radio. San Francesco è il santo della povertà, ma è anche il santo, secondo l'autore, di una nuova organizzazione sociale ed economica. All'interno della sua ecclesia, scrive infatti l'autore, sbocciava, cresceva, si consolidava uno spezzone di società che oggi potremmo riconoscere come traduzione del socialismo utopico o del comunitarismo solidale e mutualistico. privo di sfruttamento capitalistico, di produzione selvaggia e di plusvalore sulla pelle dei lavoratori. E poi si parla di altri temi come quello della Chiesa. San Francesco è fondatore dell'altra Chiesa, non di un'altra Chiesa, ma diede vita certamente a uno scontro con la Chiesa ufficiale che, soprattutto negli ultimi anni della vita del santo, cercò in tutti i modi di normalizzare la sua regola e il suo esempio. Un altro tema è quello della letizia, che trova espressione nel famoso Cantico delle Creature, che è il primo poema in lingua volgare della nostra letteratura. Ricordo che di uno dei protagonisti del conclave, il cardinale Gianfranco Ravasi, è appena uscito L'incontro, che presenta gli esercizi spirituali che lo stesso cardinale aveva predicato a Benedetto XVI e alla Curia dal 7 al 24 febbraio 2013, pochi giorni prima appunto del conclave. Il libro è pubblicato da Mondadori, 152 pagine, 9,90 euro. L'altro appuntamento importante della settimana scorsa è stato l'avvio dei lavori della 17ª legislatura. Facciamo gli auguri di buon lavoro ai parlamentari e segnalo anche a loro il libro di Federico Russo, Gli Onorevoli. Cosa fanno e come ci rappresentano i nostri parlamentari? L'autore è un ricercatore a Siena, il libro è pubblicato dal Mulino, 200 pagine, 19 euro, e in questo libro l'autore conduce un'analisi sull'attività appunto dei parlamentari per segnalare le varie categorie nelle quali essi si possono distinguere, quelli che badano agli interessi delle proprie circoscrizioni, quelli che si specializzano in un tema, quelli che alla Camera non ci vanno proprio mai, e soprattutto studia le attività a cui i parlamentari si dedicano. I nuovi parlamentari affrontano una situazione che per certi versi è drammatica, particolarmente nel campo dell'economia. E allora parliamo delle prospettive del nostro paese, delle quali si dovrà occupare il nuovo Parlamento. Vi segnalo perciò il libro di Alessandro Rosina, L'Italia che non cresce, gli alibi di un paese immobile. La Terza, 164 pagine, 12 euro. Che futuro ci aspetta? Un futuro nel quale ci sia di nuovo la crescita, si augura l'autore. Crescita intesa come un processo in grado di porre le condizioni perché domani tenda a essere migliore di oggi. E quindi questo libro spiega di non considerare la ricchezza materiale prodotta come l'unico parametro di riferimento, ma di allargare il concetto di crescita alla base di un modello di sviluppo, scrive, che metta al centro il miglioramento effettivo del benessere. E quindi il libro esamina quelli che sono i limiti alla crescita per esaminarli senza alibi, appunto, alibi che vengono qui attentamente analizzati e smontati dall'autore. E si capiscono anche i fenomeni e i comportamenti degli elettori, quelli che si sono manifestati anche nelle recenti elezioni politiche. Per esempio, parlando dei giovani, Rosina osserva come l'enorme debito pubblico, la riforma pensionistica e quella del mercato del lavoro hanno tutelato risorse e diritti esistenti, scaricando i costi maggiori sulle generazioni successive. Per tali scelte, per l'incapacità di creare sviluppo, per la poca attenzione al bene comune, per i freni di ricambio, conclude, la fiducia dei giovani, non solo nei confronti dei partiti, ma più in generale verso la classe dirigente e le istituzioni, è in caduta libera, e ne abbiamo visto anche i risultati. E quindi ci sono delle proposte concrete, per esempio delle proposte sul voto. Rosina propone di abbassare l'età per essere eletti, propone anche che cambino i pesi che si attribuiscono al voto. Per esempio, dice Rosina, bisognerebbe legare il peso del voto all'aspettativa di vita residua, insomma il voto dei giovani dovrebbe pesare più degli anziani, o ancora bisognerebbe che si facessero votare i minorenni attraverso i genitori, cioè si attribuisse un voto per così dire pesato e ponderato sul numero dei componenti della famiglia. E poi, ultimo consiglio, porre un limite al numero dei mandati per stimolare il ricambio generazionale. E a questo punto il confettino. Insomma, ci muoviamo in terre incognite, vedremo che cosa ci riserva il futuro, e quindi abituiamo i nostri ragazzi al gusto della scoperta. Vi segnalo perciò il libro di Irene Venturi, illustrato da Francesca Carabelli, Che scoperta, storie di idee fulminanti. È pubblicato da Einaudi Ragazzi, 148 pagine, 14,90 euro, e nel libro troviamo personaggi di ogni genere, da Didone a Fibonacci, che ci introducono con le loro avventure del pensiero e i loro spesso azzardati esperimenti al gusto appunto della scoperta. Prima di lasciarci, vi segnalo che a Pordenone si conclude il 23 l'edizione 2013 di Dedica Festival, di cui quest'anno è protagonista lo spagnolo Javier Cercas, che parteciperà a un incontro giovedì 21 alle 20:45. Di quest'autore di recente è stato pubblicato in Italia La verità di Agamennone da Guanda, 234 pagine, 15,30 euro, tradotto da Pino Cacucci. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Pietro La Corte in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro chiocciola radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica, vi do appuntamento la settimana prossima.